non si possono dire parolacce in radio, quindi cercherò di essere istituzionale. Diciamo che quello che emerge è che il nostro Parlamento e le nostre istituzioni sono state profondamente inadeguate, credo, al 2021, nel senso che purtroppo i numeri sono impietosi, i numeri della votazione con cui il Senato ha affossato questa mattina il DDL Zan, diciamo, è molto ampio, diciamo 154 voti, è proprio una maggioranza molto ampia che va anche oltre i confini delle forze politiche che erano esplicitamente contro. Ci sono stati un po' di franchi tiratori anche probabilmente nelle forze politiche che sostenevano la legge, che col voto segreto hanno potuto, numeri piccoli ma comunque in questo caso fondamentali, per poter affossare definitivamente il testo. È molto molto amaro che ci sia questa responsabilità diffusa un po' della politica, poi chi più chi meno, ovviamente questo al netto dei ringraziamenti per tutti coloro che dentro e fuori il Parlamento si sono battuti invece onestamente in maniera limpida per cercare di portare a casa un testo di legge, ma è una fotografia veramente implacabile e che ci trasmette una profonda amarezza, quella delle nostre, del nostro Parlamento. Ecco. Sicuramente noi come ACGAY, con le associazioni, le reti informali, tutte le persone di buona volontà di questo paese continueremo a cercare di porre un argine all'omotransfobia, ma registriamo che ancora una volta lo Stato italiano si è girato dall'altra parte. La questione comunque dell'omolesbobitransfobia rimane aperta nonostante il Parlamento abbia deciso di non intervenire, e ci saranno margini per una legge magari diversa? Non credo, nel senso che con il voto di oggi credo che la questione, salvo miracoli, insomma, io credo l'unico modo per poter fare una legge, una nuova legge, sarebbe come ricominciare tutto un iter istituzionale per cui francamente non vedo lo spazio politico in questo momento, visti anche questi numeri. Quindi credo che per questa legislatura abbiamo finito per quanto riguarda leggi su questo tema. Poi ovviamente spero sempre di essere smentito, magari domani mattina abbiamo qualche operazione funambolica da parte di qualche esponente politico, ma è abbastanza improbabile, nel senso che l'unico attore che ha il potere per poter mettere in campo rapidamente, far approvare rapidamente un testo di legge sull'omotransfobia è il governo, che ha tutti gli strumenti che possiede il governo per poter far andare una legge in approvazione entro 48 ore se vuole, ma è questo governo costruito appunto con una maggioranza mista, destra e sinistra, non può ovviamente intervenire su temi di questo tipo, non può, non vuole, non ha lo spazio politico, e quindi la cosa viene lasciata al Parlamento, i numeri in Parlamento sono questi, e quindi non è proprio possibile, credo, procedere. Dopodiché spero di essere smentito ovviamente, ma temo molto che almeno per un po' non sarà possibile, almeno a livello istituzionale nel Parlamento, nelle aule del Parlamento, Camera e Senato, procedere in tal senso. Torno un attimo alla questione dei franchi tiratori. Tu dicevi appunto anche nelle forze che avevano manifestato consenso verso questa legge, grazie al voto segreto si è registrato. Qualcuno c'è stato. C'è un problema anche, diciamo così, valoriale all'interno di alcuni partiti. Sul tema dei diritti civili si fa sempre una grandissima fatica a far esporre le forze politiche, anche quelle grosse, diciamo, a volte più semplice con quelle magari che hanno un impatto minore, ma diciamo senza nulla togliere loro, ovviamente meno forza rispetto al fatto che lo facciano forze politiche maggiori. Forze politiche maggiori spesso hanno difficoltà a parlare di questi temi come matrimoniale. Beh, ad esempio in Italia in questo momento non esiste nessun partito che superi lo 0, che ha nel proprio programma il matrimonio egualitario, ad esempio. Giusto per fare un esempio anche diverso, il che è un indicatore di come si fa fatica, diciamo, nonostante praticamente tutti gli altri paesi d'Europa occidentale abbiano già uno strumento di questo tipo, da noi nemmeno, addirittura nessuno ce l'ha nel proprio programma, neanche i partiti progressisti. Quindi ovviamente, per quanto poi si cimentino, se non c'è una chiarezza a monte, diciamo, quando si costruiscono le candidature, si portano le persone in Parlamento, quando non c'è una chiarezza, un'unità di intenti su un determinato tema, poi quando si arriva al dunque può capitare che qualcuno, approfittando del voto segreto che permette di sfuggire, diciamo, alla cosiddetta disciplina di partito, poi ne possa approfittare per unirsi a chi vuole demolire la legge, diciamo. Fortunatamente sicuramente una minoranza, ma sono purtroppo con i numeri risicati che ci sono in Senato, anche una piccolissima minoranza è in grado di poter, appunto, quando ha l'occasione, silurare determinati provvedimenti di legge. In questo caso un provvedimento di legge atteso veramente da oltre 25 anni.